I want to know, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolate come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know perché la gente non dice niente. I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, vorrei sapere, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know perché la gente non dice niente. I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know.